La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Questa settimana l'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla funzione dell'intervista come fonte di documentazione storica. Sull'argomento si è svolto, dal 5 al 7 maggio scorsi, un convegno alla Biblioteca Nazionale di Roma, organizzato dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, in occasione del quale abbiamo realizzato una breve intervista con Massimo Pistacchi, direttore dell'Istituto. Nella seconda parte vi proponiamo un radiodocumentario sul D-Day, raccontato dai veterani di colore, che oltre ai fatti ci descriveranno i soprusi subiti a causa del colore della loro pelle e la paura provata quando pensavano che non sarebbero mai riusciti a tornare a casa. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel mercoledì 27 maggio alle 13:20. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Dopo aver partecipato e condotto show per la televisione britannica, il conduttore televisivo David Frost Paradine decide nel 1977 di intervistare l'ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, che si era dimesso nel 1973 dalla carica in seguito allo scandalo Watergate. Nixon, che fino ad allora aveva mantenuto sull'accaduto il più assoluto silenzio, accetta. Punta in qualche modo a guadagnare consensi dopo lo scandalo che lo ha travolto. È una delle interviste più famose della storia, riproposta nel film di Ron Howard Il Duello. Le cose vanno diversamente da come Nixon le ha immaginate. Frost, con le sue domande incalzanti, riesce a mettere in difficoltà l'ex presidente, che a un certo punto ammette davanti a milioni di telespettatori i suoi errori e le sue responsabilità. Al popolo americano serve una condanna. Vorrei dare a Nixon il processo che non ha mai avuto. La democrazia dipende da questo. Non permetteremo che accada. Dobbiamo sbarazzarci di loro. Voglio potere e gloria. Perché non ha bruciato le registrazioni? Non volevo rispondere a nessuna domanda sul Watergate. Ferma la ripresa. Io ti rovinerò. Dovessi impiegarci il resto della mia vita. Cosa ho fatto? Se in questa intervista Nixon si dovesse autoassolvere, davvero sarebbe il peggiore dei crimini. 3, 2, a te, David. Veramente lei sostiene che il presidente può fare qualcosa di illegale? Sto dicendo che se è il presidente a farlo, vuol dire che non è illegale. Come, scusi? Lo scandalo prese avvio con la scoperta da parte di due giornalisti del Washington Post di attività illegali da parte dell'amministrazione del presidente Richard Nixon durante la campagna elettorale presidenziale del 1972. La vicenda ebbe origine con l'installazione di un sistema di intercettazione telefonica nel quartiere generale del Partito Democratico presso il complesso residenziale Watergate a Washington, a beneficio del Comitato per la rielezione del repubblicano Nixon. Accettando le dimissioni dei suoi collaboratori coinvolti, Nixon si dichiarò pubblicamente estraneo alla vicenda, ma uno di loro, durante il processo, lo accusò di occultare la sua partecipazione, dimostrata da registrazioni delle conversazioni presidenziali. Dopo una lunga battaglia procedurale, furono rilevate anche illegalità nella raccolta dei fondi per la campagna elettorale, tentativi di evasione fiscale, riscossione di tangenti e altri reati. Travolto dall'apertura di un'indagine di amplissima risonanza pubblica da parte del Congresso e dalla messa in stato d'accusa, Nixon annunciò le dimissioni l'8 agosto 1973. L'intervista di David Frost viene seguita da circa 45 milioni di telespettatori. È uno dei casi più eclatanti di come un'intervista possa divenire nel tempo anche un'importante fonte di documentazione dal punto di vista storico. Sull'argomento si è svolto dal 5 al 7 maggio scorsi un convegno alla Biblioteca Nazionale di Roma organizzato dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Ascoltiamo quel che ha detto il direttore dell'Istituto Massimo Pistacchi nell'intervista realizzata da Cristina Fei. Fino a qualche anno fa, circa 10 anni fa, 10 anni fa, noi eravamo concentrati su questa filiera. Una registrazione digitale veniva effettuata attraverso un registratore, si creavano dei supporti dentro i quali c'era il contenuto della dell'intervista in questo caso, o della registrazione sonora in ogni caso, più ampia, e poi c'erano problemi di conservazione di questo supporto. Era cioè una cosa fisica, tendenzialmente tradizionale. Con l'avvento di quello che si dice il dominio del digitale, improvvisamente tutto è cambiato, una vera e propria rivoluzione copernicana, perché il digitale che nasce come strumento di conservazione, in realtà poi impatta fortemente tutti gli altri tre campi, cioè il problema della registrazione, del reperimento delle fonti, si registra in digitale, della conservazione dei dati digitali e della fruizione degli stessi. Un esempio ovvio è la fruizione, ad esempio, in rete, con tutti i problemi che crea. Quindi il digitale è una rivoluzione potente nel nostro campo, ma è anche vero che bisogna far chiarezza, perché un istituto come il nostro, l'istituto centrale, che ha compiti molto ampi come indirizzo e come guida anche a livello nazionale, bene, deve anche porre l'attenzione non solo sui vantaggi, ma anche sulle problematiche che il digitale dà. Che forme di tutela abbiamo quindi oggi dei dati acquisiti? Guardi, sono due forme, due tipologie di forme. Innanzitutto quello che è proprio la conservazione dei dati digitali. La conservazione dei dati digitali è un problema mondiale, non è né italiano né europeo. È un problema perché i dati digitali sono dati che hanno bisogno, per la loro conservazione, di trattamenti specifici. Con il digitale non dobbiamo più pensare a un supporto, come sarebbe naturale, no? Pensare a un supporto che in maniera definitiva ci dà la sicurezza della permanenza nel tempo. Il digitale impone esattamente il contrario. Tanto più si conserva il dato digitale, tanto più questo trasmigra, le famose trasmigrazioni di intere banche dati, permanentemente, cioè noi dobbiamo ritrascrivere continuamente, lo si fa meccanicamente ovviamente, però non c'è una definizione fissa, ma la conservazione è data proprio dalla migrazione dei dati. Ecco, la particolarità di queste tre giornate di convegno è proprio l'importanza dell'intervista come fonte di documentazione, quindi non più un dato scritto, un documento scritto, archiviato e conservato, ma fonte orale. Abbiamo fatto un passo in avanti. Sicuramente, 22 anni fa, dal 5 al 7 maggio del 1986, l'allora discoteca di Stato, è il nostro nome precedente, adesso siamo Istituto Centrale, ma l'allora discoteca di Stato promosse il convegno, l'intervista, strumento di documentazione in tre ampi settori, giornalismo, antropologia e storia orale. Sono passati 22 anni, allora era rivoluzionario parlare di questo perché le fonti storiche, intendo fonti, non strumenti, sono sempre state considerate le fonti tradizionali, cioè i documenti degli archivi, i libri, no? Delle biblioteche, insomma fonti certe, verificabili, ma di quel tipo. Già allora, 22 anni fa, le resistenze erano molte, soprattutto da parte degli storici, che naturalmente quando si intende fonte si intende un certo tipo di documento con determinati requisiti. Perché oggi noi abbiamo voluto riproporre negli stessi giorni, a 20 anni di differenza, lo stesso convegno, aggiungendo però un altro grande campo di attività che è la sociologia? Perché in questi quattro grandi campi l'intervista è attualmente utilizzata e in questo ventennio si è ormai consolidato il fatto che l'intervista, se naturalmente non parliamo di quella d'attualità o di giornalismo diciamo quotidiano, ma l'intervista, se effettuata con determinati criteri, con determinate metodologie, su determinati presupposti, possa, e di fatto è così, qualificarsi come fonte storica. Adesso le faccio un esempio molto semplice, ma lei può pensare a una storia contemporanea del Novecento senza l'uso di queste fonti? Quindi il nostro convegno tende non solo a dare la situazione aggiornata su questo campo, ma vuole anche dare la misura di questa evoluzione, e cioè far capire quanto è successo, quanto di realmente rivoluzionario è successo nell'uso delle fonti nell'ultimo ventennio. L'Istituto ha un sito nel quale chiunque vorrà accedere potrà scaricare e consultare liberamente gli atti di quel convegno, paragonandole agli atti che poi usciranno di questo, si potrà ben capire come la situazione è cambiata e come tanti problemi nuovi sorgono su queste tematiche. Questo è un passaggio dell'intervento svolto nel corso del convegno sul tema specifico dell'intervista giornalistica dal vice direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi, conduttore del programma pomeridiano Fahrenheit. L'intervista funziona se funziona la relazione a tre o a tre, se volete che sottolineare l'elemento morboso. L'intervista è una relazione attuale, quindi come sapete, se non lo sapete fatelo spiegare da chi ha esperienza di relazione attuale, è più difficile delle relazioni, cioè più complicata da tenere in piedi, presuppone troppe condizioni di disponibilità e che ci sia qualcuno che ha qualcosa da dire, per esempio, che non è detto, non è nello scenario contemporaneo facendo questo di loro una presenza così scontata a folla, perché chi ha qualcosa da dire abbia tempo, voglia e disponibilità di dirla. E chi sta in mezzo, cioè chi l'intervista abbia tempo, voglia e capacità di fargliela dire, e chi ti ascolta abbia tempo, voglia e capacità di sentire questa cosa. Ho un'idea per un'intervista. Richard Nixon. Sei il presentatore di un talk show, ieri ti ho visto mentre intervistavi i Bee Gees. Non erano meravigliosi. Perché mai dovrei parlare con David Frost? Per $500,000. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera è una raccolta di testimonianze di alcuni veterani neri della Seconda Guerra Mondiale che raccontano episodi di razzismo subiti a causa del colore della propria pelle. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel mercoledì 27 maggio alle 13:20. Il mio nome è Edward B. Farley. Nel D-Day ero in una unità chiamata 463esima Compagnia di Amtrak. Il nostro compito era di entrare in acqua, raggiungere le navi alleate che arrivavano e trasportare tutti i rifornimenti a terra. Avevo 18 anni quando entrai nell'esercito, 18 anni, e divenni sergente maggiore. Prima fui caporale, poi sergente semplice, poi sergente maggiore. Il mio nome è William Garfield Debney. Ero con il 320° battaglione dei palloni da sbarramento. Sbarcai il 6 giugno 1944 in mattinata. Decisi di arruolarmi nell'esercito perché lo facevano i miei amici e io volevo stare con loro. Non frequentavo nessuna ragazza in particolare qui a quel tempo. Così io ed un mio amico decidemmo di arruolarci come volontari e prestare servizio al paese. Quando il nemico attacca, il pallone deve essere mandato in aria. Sarà anche necessario gonfiarlo durante una tempesta e probabilmente anche durante un bombardamento. Il vostro incarico sarà quello di manovrare i palloni e mantenerli in aria. Ancora William Dabney. Ci avevano addestrato a manovrare quei palloni. Non dovevamo pilotarli. In realtà erano attaccati a dei cavi, quindi bastava fissarli e lasciarli sospesi in aria. Il mio nome è Monroe Blackwell. Ero con il 490° battaglione portuale. Sbarcai sulla spiaggia di Utah il 6 giugno del 1944. Io volevo combattere, ma non accettavano molti neri in prima linea a quel tempo. Quando scoprii come eravamo stati divisi, mi intestardì. Se volevano che andassi, avrebbero dovuto arruolarmi. Non sarei andato come volontario. Eravamo in sei che venivamo da Dalton, in Georgia. Eravamo andati tutti a scuola insieme, appartenevamo alla stessa parrocchia, eccetto uno, e vivevamo anche vicini. All'accampamento i bianchi stavano da una parte e i neri dall'altra. Non ci addestravano insieme, lo facevano separatamente. Carl Watson, veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Avevamo chiaro il quadro della situazione. C'era l'esercito dei neri e l'esercito dei bianchi. Si era sempre pensato che gli ufficiali del sud riuscissero a controllare gli afroamericani meglio di quanto non facessero quelli del nord. E credo che la maggior parte dei nostri ufficiali provenisse dal sud. Erano tutti bianchi. Dovevamo farcene una ragione. David Brown, veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Agosto 1943. Andammo a Newport News, in Virginia, per essere imbarcati. Quello in cui speravamo allora era di poter arrivare in Inghilterra sani e salvi e di poter poi tornare a casa. Se tutto fosse andato bene, la guerra sarebbe finita prima del nostro arrivo in Inghilterra, ma era solo una speranza. Appena scesi dalla nave, fummo accolti da un discorso di benvenuto che ci spiegava in maniera concisa ed inequivocabile il perché della nostra presenza. Era tutto chiaro, dovevamo invadere il continente. A mio avviso, le osservazioni più entusiasmanti che misero al tappeto i gentiluomini del Sud furono gli ordini precisi che in quel contesto non ci sarebbero dovute essere discriminazioni razziali. Le persone inglesi, i bambini, gli uomini e le donne furono gentili e ospitali con i nostri soldati neri. I nostri ragazzi rimasero stupiti e contenti di questo nuovo trattamento. Il loro morale salì del 500%. Tenente Lawrence Kane, 582esima Compagnia Fanteria Meccanizzata. Ken Clark, residente di Pontypool, Galles. Era il 1943. Avevo 10 anni quando i neri americani giunsero in questo paese in preparazione al D-Day. Non riesco a trovare le parole per descrivere l'impatto che ebbero. Erano gentili e generosi. I bambini li adoravano, erano molto pazienti e assai cordiali. Erano spensierati e portavano allegria nelle nostre vite. Venivano nelle nostre cappelle e cantavano nel coro e prendevano parte alle funzioni. Ricorderò quei giorni anche per questo. William Dabney, veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Ci piaceva andare nei pub e cantare. Le persone si mettevano intorno al pianoforte e intonavano le note delle bianche scogliere di Dover e noi cantavamo con loro. Passavamo delle splendide serate. Ancora Ken Clark. Quando i neri americani stavano nei pub del posto e arrivavano anche i bianchi, nascevano sempre dei problemi. I bianchi non volevano che i neri bevessero nello stesso posto in cui si trovavano loro. I miei genitori mi raccontavano che scoppiavano delle risse. Alla fine l'unico modo per tenere la situazione sotto controllo fu concedere ai bianchi di venire al pub una sera e ai neri la sera successiva. A noi sembrava strano vedere questo conflitto tra americani che provenivano dalla terra della libertà. A fine maggio, quasi tutta l'Inghilterra è una vasta zona popolata dai militari. Mi chiamo John Roberts, guardia costiera americana. Ero sulla nave LCI 93. La LCI è una nave a fondo piatto che prende i militari e li porta a terra. Fuori dallo scalo d'approdo, i militari prestavano servizio. Ci dissero in quel momento che molti di noi probabilmente non saremmo tornati. Sapevamo che si trattava di qualcosa di grosso. Ancora Charles Sporrell. Eisenhower ci diede le istruzioni e ci disse che cosa dovevamo aspettarci da quell'invasione e aggiunse: quando arrivate sulla spiaggia non cercate di trincerarvi e cominciate a fare fuoco sul nemico. Salite sulla collina e continuate ad avanzare, perché potrebbe sopraggiungere qualcuno alle vostre spalle. Disse: appena sbarcate, buttatevi a terra e strisciate, perché sarete dei facili bersagli. Ancora Allen Price. Ci fecero salire sulle navi e altre barche. Restammo in nave 2 o 3 giorni prima che ci fosse l'invasione. Ovviamente pioveva. Pioveva in tutto il paese, accidenti. Diedero il via e salpammo tutti insieme. Ancora Charles Sporrell. Era una vista, oh accidenti che vista, indimenticabile. Era una vista meravigliosa. 5.000 navi. 5.000 navi in mare. Avreste dovuto vederle. Ci divisero. Non sapevamo davvero dove ci stavamo dirigendo. Non avevamo idea. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario. Le truppe americane stanno sbarcando in Normandia. È il 6 giugno 1944, che passerà alla storia come il D-Day. I veterani di colore raccontano quella giornata e i giorni successivi passati sulle spiagge francesi a combattere contro i nemici e contro i pregiudizi razziali dei soldati americani bianchi. Le prime truppe sbarcarono intorno alle 6:30 del mattino. Charles Sporrell, veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Non ci dissero niente, assolutamente niente. A un certo punto la rampa si abbassò e ci dissero di scendere. Ancora Charles Sporrell. Appena scesi in acqua, ci accorgemmo che era molto difficile raggiungere la spiaggia. Le armi dei tedeschi erano terribili. Erano terribili, non sto scherzando. Monroe Blackwell, veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Quando arrivammo sulla spiaggia, il secondo tenente della compagnia B disse: la compagnia C si allinei da questa parte, la compagnia B da quest'altra. Il tutto sulla spiaggia sotto gli spari. Non appena diede l'ordine, noi eseguimmo. Un aereo tedesco si abbassò e cominciò a sparare. Ma per fortuna nessuno di noi rimase ucciso. Io facevo parte della seconda ondata della nostra compagnia ad andare sul posto. La prima era già partita e perdemmo un nostro sergente. Ancora Charles Sporrell. L'ultima cosa che ho saputo era che si trovava in una buca. E quando si alzò per uscire, venne colpito da un cannone che lo decapitò. Questo ho saputo. Penso spesso a lui, al buon vecchio sergente Collins. In quella situazione non potevi lasciarti andare. Dovevi trovare la forza di andare avanti. E così facemmo. John Roberts, veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Il primo carico di truppe sbarcò sulla spiaggia. Senza problemi. Aspettavamo che i soldati piazzassero e scaricassero le armi. Poi andammo a prendere un secondo carico che dovevamo portare sulla spiaggia nel pomeriggio. L'acqua stava cominciando a ritirarsi per la bassa marea e quando tutti i soldati scesero non c'era più acqua sufficiente per tornare indietro. Stavo portando un messaggio del comandante alla sala macchine dove si diceva di mandare i motori al massimo. Mentre stavo andando, una granata arrivò attraverso la paratia ed esplose proprio sotto di me. Sapevo di aver perso una gamba prima ancora che il medico mi raggiungesse. Il piede era andato, tutti i muscoli, la pelle e l'osso penzolavano dal mio ginocchio e l'altra gamba era avvolta dalle fiamme. Credevo di non farcela. Riuscirono a portarmi su una delle grandi navi dove mi bendarono e un paio di giorni dopo mi misero su un'altra nave e mi rimandarono in Inghilterra. Se fossi stato qualche metro più in basso, probabilmente non sarei qui. Ancora Allen Price. I palloni di sbarramento vennero portati attraverso la Manica e vennero preparati per essere messi in funzione per proteggere le truppe sulla spiaggia. William Dabney, veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Nel mio battaglione non arrivammo tutti insieme, eravamo stati sparpagliati. Il mio equipaggio era formato solamente da due uomini e aveva un carico particolare. Io ero probabilmente il più giovane dell'imbarcazione, tuttavia ero il capo. Ricordo che poco prima di arrivare alla spiaggia il mio pallone venne messo furioso. Non so, forse venne abbattuto, venne colpito da un aereo. A ogni modo, non lo avevo più. Ormai era andato, lo avevamo perso. Mi disse, bene, non tornerò più negli Stati Uniti, non rivedrò più nessuno e credevo che prima o poi sarei morto lì. Yvonne Letty, autrice di Noi c'eravamo. Waverly era un medico. Durante la prima ondata del D-Day c'era bisogno di più dottori. Così gli dissero, vieni tu. Improvvisamente la segregazione non valeva più. Gli ufficiali bianchi gli dissero, ci servi su questa nave. E venne imbarcato su un LST e fece parte della prima ondata dell'invasione del D-Day. La nostra nave travolse una mina sommersa e i tedeschi cominciarono a spararci addosso. Ricordo che una granata ci colpì sul lato destro, uccidendo 55 uomini. Gli unici che se la cavarono fummo io ed altri due ragazzi, ma ero stato colpito alla schiena e all'inguine. Ho nuotato fino alla riva e ho strisciato sulla spiaggia fino alla scogliera fuori dalla portata delle mitragliatrici e dei cecchini. Ovunque era una carneficina. Ed ecco questo giovane uomo afroamericano che era nell'unità segregata, che veniva chiamato cittadino di seconda classe, circondato da uomini bianchi feriti. E lui cosa fa? L'unica cosa a cui riusciva a pensare era come posso salvarli? Come posso aiutarli? Nel bel mezzo di tutta quella violenza e di tutto quel sangue e quella morte, lui costituì la prima stazione di pronto soccorso. Era come se tutti gridassero, dottore, dottore, mi aiuti! Estrassi una pallottola dalla spalla di un soldato e bendai uno squarcio sulla spalla di un altro. Amputai persino un piede destro. In questo modo riuscii a salvare 300 vite. E si fermò solo quando svenne. E questo, ai miei occhi, è eroismo. Secondo me, lui era una persona che si meritava la medaglia d'onore del Congresso e tutti i generi di riconoscimenti e plausi e meriti. E invece non ricevette niente. Ancora Carl Watson. Quando arrivammo sulla spiaggia, vidi per la prima volta dei soldati ammazzati, straziati e riversi a terra. Rimasi letteralmente scioccato da quella vista. Erano tutti giovani soldati bianchi, giovani uomini che avranno avuto circa 20 anni. Erano giovanissimi. Ancora Charles Sporrell. Dopo essere sbarcati, il nostro compito doveva essere quello di portare le provviste a terra. Si trattava di medicinali, ricambi meccanici, bombe. Bombe da 225 kg. Gli uomini dei battaglioni forniscono un servizio di traghetto 24 ore al giorno. Raccolgono le provviste dalle navi e le consegnano dove è necessario, in tutto il continente europeo. Ancora Allen Price. Penso che molti fucilieri non capivano che se non ci fossimo stati noi a spezzarci la schiena per portare loro la benzina, le munizioni e il cibo, loro si sarebbero trovati in un mare di guai. Era questo il nostro lavoro, anche se eravamo considerati cittadini di serie B. Quando arrivava loro dei pasti, non volevano neanche darti da mangiare, dopo che avevi portato loro cibo, munizioni, benzina, acqua, nonostante gli sforzi e i sacrifici che avevi fatto. Questo mi faceva arrabbiare. Ancora Yvonne Letty. Se ci pensi, servi un paese che lincia la tua gente. Servi un paese che fa sedere i tuoi simili in fondo ad un autobus. Qualunque giovane potrebbe chiedersi, ma cos'hai che non va? Perché lo fai? Ancora Charles Sporrell. Ho combattuto per il mio paese. È l'unico paese che conosco. Sono stato sempre qui. Non conosco nessun altro paese. Non ho mai visitato un altro paese. Questa è la mia casa. La mia famiglia, tutta la mia famiglia vive qui. È nata e cresciuta qui.